140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Spazio Pergolesi, Milano. Verso un grande 2016 per Zucchero, un nuovo album e soprattutto 10 concerti all'Arena di Verona, il luogo ideale per incontrare il pubblico. A un certo punto tu riesci comunque, anche se non vedere proprio in fotografia grande, ma percepisci la vibrazione, percepisci lo spirito, perché è una bomboniera che, pur contenendo più di 10.000 persone, comunque ti avvolge. Il calore del pubblico, e hai parlato anche dell'amicizia, della collaborazione, delle persone che vorresti che salissero sul palco con te. È bella questo aspetto della condivisione, è bellissimo. Sì, io ho cominciato, come sai, collaborando con artisti fin dall'inizio, insomma è sempre stata una specie di cosa che forse a quel tempo qui in Italia non veniva fatta soltanto da pochi. È uno scambio, l'idea di, ma però non deve essere programmata a tavolino molto tempo prima. Io concepisco il fatto di non so, la sera prima o due giorni prima dice: ah, dove sei? Sei qua, io sono là, perché non ci vediamo? Dai, fai un salto, e quale brano facciamo? Beh, vediamo lì, ci mettiamo, hai capito, la mattina da una parte e decidiamo quale brano, quali brani fare, come un po' è successo con me quando sono andato a trovare Bono a Torino. Cose nate così, all'ultimo momento. Arrivano di più, secondo me, che non cose che si vede che sono state preparate e calcolate nei minimi dettagli. Ci sarà l'anno dei 10 concerti, anche di questo album nuovo, con un ritorno alle sonorità di Oro, Incenso e Birra, un salto all'indietro di 27 anni, non male. Sì, questa è l'intenzione, nel senso, Chocabec, che è uscito 5 anni fa, era un album delle mie radici a cui sono molto legato, mi ha dato grandi soddisfazioni, insomma sonorità più intime, ma l'idea di ritornare alle sonorità di Oro, Incenso e Birra, di blues, è fisiologico, perché comunque se non altro il modo in cui scrivere le canzoni, più di getto, meno pensate, senza così ponderare troppo quello che sta succedendo in musica, nel mondo, senza vedere cos'è che funziona o non funziona. Ecco, è questo lo spirito su cui ho lavorato per ritornare a quei tempi là. Qualcuno ti ha chiesto dei rapper e tu hai detto che alcuni rapper ti piacciono molto perché i rapper hanno il coraggio di dire certe cose che il rock e il pop non dicono più, mentre il blues le dice ancora. C'è la necessità ancora, sì, di andare contro con la musica. Sì, diciamo che il rock, da come è nato, eccetera, aveva la funzione e ha avuto la funzione che ha il rap adesso, cioè di dire, di andare contro un sistema, contro qualcosa che faceva star male le persone. persone, diciamo, gli emarginati, persone semplici, eccetera. Purtroppo, in generale, dico, io non parlo solo dell'Italia, parlo in generale, il rock non ha, è diventato molto, come, bel impacchettato, cioè vogliamoci bene, ecco. I rapper hanno la funzione, almeno dicono qualcosa contro qualcuno, contro un sistema. Non parlo solo dal punto di vista musicale, parlo più che altro dal punto di vista dei testi, dell'attitudine che c'è in certi artisti rap. E adesso c'è più bisogno che mai di parlare di verità nella musica, in un mondo in cui stanno succedendo tante cose difficili. Sì, sì, non so se riusciremo a, ovviamente traslato nei giorni nostri, avere la forza che aveva il rock negli anni 60-70. Se qualche coraggioso ci sarà ancora, ma no, probabilmente dal punto di vista degli artisti c'è questo coraggio. Il problema è che poi queste cose magari non vengono trasmesse dalle radio o dai media, per cui passano quasi inosservati. Ecco, vorrei che ci fosse un po' di più di tutto e non solo di una cosa omologata, non so, sono stato abbastanza chiaro nel mio casino. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Zucchero. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.